Un libro tira l'altro, di Salvatore Carrubba. Il più grande peccato della Sicilia è stato ed è sempre quello di non credere nelle idee. Ci sono naturalmente delle ragioni di storia, ragioni di esperienza, però è questo che ha impedito sempre alla Sicilia di andare avanti. Questa sfiducia nelle idee, anzi questa mancanza di idee, ormai si proietta su tutto il mondo. In questo senso, per me la Sicilia ne è diventata la metafora. Questa che ci ha accolto era la voce di Leonardo Sciascia, di cui venerdì ricordiamo il 20° anniversario della morte, un grande protagonista della vita culturale, letteraria e sociale del nostro paese. In questa occasione escono diverse pubblicazioni, vi segnalo innanzitutto un volume con l'intera sua bibliografia, pubblicata per la prima volta, il volume curato da Antonio Motta, si intitola Biografia degli scritti di Leonardo Sciascia, è pubblicato da una casa editrice che fu molto cara a Sciascia, la Sellerio di Palermo, 352 pagine, 20 euro, ha un'introduzione di Gianni Puglisi e una nota di Salvatore Nigro. Sciascia fu uno scrittore poliedrico, non pubblicò soltanto dei libri, ma anche cataloghi di mostre, interventi parlamentari, comunicazioni, a convegni, traduzioni, interviste, articoli, e si occupò di tantissimi temi, la letteratura, la storia siciliana, la giustizia, la politica, la cultura francese, la pittura, l'acquaforte, la fotografia, i libri antichi. Tantissimi interessi, tantissimi scritti di cui troviamo per la prima volta un filo in questa opera. Una prefazione che Sciascia scrisse fu quella a un volume pubblicato nel 1977 dalla Dalmine, Acque di Sicilia, che raccoglieva le fotografie che per quella occasione aveva scattato una grande fotografa, Lisetta Carmi. Proprio stasera si conclude a Milano, c'è ancora tempo per vederlo oggi pomeriggio al Teatro dell'Arte, una mostra in cui sono presentate 48 foto di quel reportage, o meglio 48 foto che non furono pubblicate in quel libro. Sono delle foto straordinarie che ritraggono soprattutto dei giovani, giovani che stillarono allora nella fotografa la speranza di un'altra Italia possibile. Un volume a più voci dedicato a Leonardo Sciascia è Panta Sciascia. Questo in realtà non è proprio un libro, tecnicamente parlando è una rivista quadrimestrale, appunto Panta, che dedica il penultimo numero a Leonardo Sciascia, sono 302 pagine, 28 euro ed è pubblicato da Bompiani. È un volume a più voci, anzi a tantissime voci, alcune scomparse, ricordo queste ultime, Calvino, Pasolini, Montanelli, Bovi, Gorelli, Moravia, Biagi, e nel volume troviamo anche un CD con la lettura di Una storia semplice da parte di Tony Servillo. Come avete capito, un volume ricco di testimonianze dirette e di valutazioni critiche sul grande scrittore, che quindi si rivela uno strumento molto utile per conoscere, per avvicinarci o per riaccostarci a Leonardo Sciascia. Ma sentiamo come lo presenta questo volume il curatore Matteo Collura. Buongiorno a Matteo Collura. Buongiorno. Matteo Collura, dopo 20 anni, che cosa rappresenta Sciascia per i lettori di oggi, soprattutto per i lettori più giovani che non ricordano la cronaca, non ricordano gli interventi anche in campo civile, politico di Leonardo Sciascia? Sì, Sciascia non è stato soltanto uno scrittore per cui i suoi libri possono essere consultati quando si vuole, è stato un uomo anche che ha vissuto il suo tempo intervenendo, diciamo così, anche nei fatti di cronaca, politica, sociale, giudiziaria, per cui tutto questo naturalmente si è perduto perché fa parte della cronaca, quindi naturalmente chi era giovane quando lui è morto, quindi, o chi nasceva in quell'anno, o comunque quindi sono passati 20 anni dalla sua scomparsa, oggi fa un po' di fatica, per cui ecco, può trovare nei libri una risposta. Per esempio c'è uno dei suoi ultimi libri che raccoglie le sue polemiche, è intitolato significativamente A futura memoria, con un sottotitolo piuttosto pessimista, Se la memoria avrà un futuro, ecco, che raccoglie i suoi interventi, diciamo così, da scrittore impegnato nella politica e nel sociale. Questo suo profilo è rimasto un profilo abbastanza raro, perché certo non mancano gli scrittori che firmano appelli, protestano, partecipano a marce, però un impegno quotidiano capace di scavare in alcune storture profonde della società italiana come quello di Sciascia è difficile trovarlo. Sì, non è assolutamente uno scrittore da questo punto di vista italiano, ecco, forse appartiene a quella schiera di scrittori francesi impegnati alla Émile Zola, per esempio, ecco, alla Voltaire, insomma, la letteratura come denuncia costante. Poi molti scrittori in Italia hanno aderito, si sono fatti eleggere per esempio in Parlamento come senatori e deputati, però lo hanno fatto convinti anche loro, come lo erano, diciamo, i segretari dei vari partiti, che sarebbero stati dei fiori all'occhiello, mentre Sciascia no, lui è stato prima consigliere comunale a Palermo, esterno nella lista dei comunisti, e poi nel 79 è stato eletto deputato nella lista dei radicali, ma proprio sporcandosi le mani, cioè lui ha fatto politica come un uomo politico e ha partecipato alla commissione parlamentare d'inchiesta sul caso Moro, lui ha scritto la relazione di minoranza proprio alla fine del lavoro di quella commissione, che proprio per sottolineare la sua appartenenza, diciamo, la sua adesione all'idea di Manzoni, l'ha voluto come Manzoni aveva messo alla fine dei Promessi Sposi la storia della colonna infame, lui alla fine dell'Affer Moro ha messo la sua relazione di minoranza sul caso Moro. Ecco, a proposito di questo legame con la cultura francese, c'era molto illuminismo nella tradizione di Sciascia? Sì, direi proprio di sì, lui lo dice, tra i suoi primi libri ci fu casualmente un libro di Diderot, ma lui era affascinato per esempio da uno scrittore francese che ha molti seguaci anche in Italia, a livello quasi maniacale, che è Stendhal. Ma lui amava Stendhal perché, ecco, è lo scrittore che sa coniugare in maniera quasi miracolosa il raziocinio con la passionalità. Ecco, Sciascia in fondo è questo, ecco, questo equilibrio incredibile tra la passione, la passionalità e la razionalità. Ecco, poi quello che lo distingue da i veri scettici, i veri pessimisti, qual era per esempio il sublime Tomasi di Lampedusa, autore di un romanzo straordinario che è Il Gattopardo, ecco, la differenza tra lui, tra Tomasi di Lampedusa e Sciascia è che Sciascia non è soltanto un pessimista e basta, come Tomasi di Lampedusa, è un pessimista che, diciamo così, oppone al pessimismo della ragione l'ottimismo della volontà. Ecco, in questo è moderno, in questo è lo scrittore che resta tra noi. E cosa c'è invece di profondamente, inconfondibilmente, irrevocabilmente siciliano in Sciascia? Beh, intanto questo suo essere l'opposto, diciamo, del siciliano come i leghisti per esempio credono che siano i siciliani, per dire, cioè Sciascia è più siciliano dei siciliani, ma nel negare gli aspetti, diciamo così, luoghi comuni. Per esempio lui aveva un'idea dell'amicizia che è esattamente il contrario di quella che i siciliani di solito hanno, cioè l'amicizia viene prima di tutto. E questo naturalmente è la base su cui pesca per esempio la mafia, no? L'amicizia, il familismo. Ecco, Sciascia era contrario, sentiva e aveva forti amicizie, io ne sono stato testimone, però lui all'amicizia anteponeva sempre la verità, la giustizia, il dovere, le regole. Era disposto anche a rompere amicizie dure, diciamo così, forti, lunghe, come quella con Guttuso per esempio, proprio perché lui tra l'amicizia e la verità sceglieva la verità. Grazie a Matteo Collura. Grazie a voi. Buona domenica. Arrivederci. E Matteo Collura ha pubblicato Alfabeto Sciascia con Longanesi, 192 pagine, 15 euro. Di Leonardo Sciascia è uscito un nuovo volume presso Adelphi, che sta ripubblicando la sua opera. Si intitola Fatti diversi di storia letteraria e civile, 294 pagine, 16 euro. Troviamo qui vari scritti, non sono appunto prove narrative queste, scritti sulla Sicilia, sul cinema, sulla fotografia e in particolare su quella che Matteo Collura ci ricordava essere una delle grandi passioni di Sciascia, e cioè Stendhal. Vi propongo da questo volume alcune righe che sono ispirate alla visione di un grande film di Giuseppe Tornatore, Nuovo Cinema Paradiso, che aveva evocato in Sciascia alcuni ricordi di quando lui ragazzino andava al cinema nel suo paese, Recalmuto, e poteva addirittura, grazie alla parentela con il proprietario del cinema, assistere agli spettacoli dal palco, quello che allora era il palco del Podestà. Il privilegio di stare in palco mi metteva anche al riparo dagli sputi che piovevano dal loggione, che non erano di pura e semplice vastaseria, cioè di maleducazione, ma reazione di indignazione, di disprezzo verso i personaggi vili, traditori e crudeli che in nessun film mancavano. Almeno così si cominciava, per indignazione. Ma alle proteste che si levavano dalla platea, agli sputi, si aggiungeva il lancio di bucce d'arance e di noccioli di pesche, secondo stagione. Finché, al momento in cui i lanci diventavano più frenetici, guardie municipali e carabinieri, che se ne stavano in platea a godersi il film, non si decidevano a salire al loggione, dove sommariamente distribuivano schiaffi e calci. Riaffiorava così il suono del pianoforte. Walzer di Strauss, romanze di Tosi, canzoni di Piedigrotta, Brindiam nei lieti calici e Amami Alfredo, che erano il repertorio invariabile della vecchia, mascolina e irascibile pianista che il comune miseramente stipendiava. A proposito della rivista Panta, l'ultimo volume è dedicato a un altro grande protagonista della cultura italiana, Valentino Bompiani, che 80 anni fa, nell'autunno appunto del 1929, avviava la casa editrice che ancora oggi porta il suo nome. Questo numero di Panta si intitola Fedeli e Infedeli, 406 pagine, 25 euro, ed è curato da Marco Fortunato e Laura Lepri. Interessante la scansione di questo libro, che dal 1930 a oggi, anno per anno, presenta la copertina e un brano del volume Bompiani più importanti di quell'anno. Cito un titolo per tutti, un libro di culto per tutti uscito 60 anni fa, Il piccolo principe di Saint-Exupéry. E a questo punto diamo la linea alle informazioni sul traffico. Un libro tira l'altro. Ben ritrovati con Salvatore Carruba, adesso varchiamo l'Atlantico per ricordare un altro anniversario che è stato celebrato il 21 ottobre di quest'anno, il cinquantenario dell'inaugurazione di uno dei simboli dell'architettura moderna, la sede newyorkese del Guggenheim Museum, opera del grande architetto Frank Lloyd Wright. In questa occasione il museo ha organizzato molte mostre, ce n'è una ancora in corso molto importante dedicata a Kandinsky, ma esce anche un libro sull'autore di quella grande opera, il grande architetto appunto che era scomparso anche lui 50 anni fa, era nato nel 1867. Il libro si intitola Le donne di T.C., la C sta per Coraghessan Boyle, è pubblicato da Feltrinelli, 448 pagine, 20 euro, ed è tradotto da Andrea Buzzi. Nel libro troviamo scarsi riferimenti all'opera dell'architetto, ma invece una attenta ricostruzione del personaggio che ebbe una vita sentimentale molto vivace, con tre mogli, un amante ufficiale e 10 figli. Di questa vivacità appunto troviamo testimonianze in questo libro, in cui l'autore assume le vesti di un borsista, diremmo noi oggi, giapponese, che entra a far parte dello studio, della corte, si potrebbe anche dire del grande maestro, di cui ci restituisce il carattere irascibile, dispotico e naturalmente, come abbiamo sentito, molto incline alla sessualità. Il libro magari si poteva un po' tagliare, ma insomma, se andate al Guggenheim per vedere l'opera di Wright, magari il libro vi può dare un'indicazione sul carattere di chi costruì quel monumento. Restiamo nell'America degli anni 50 con John Cheever, che è uno dei maestri del racconto statunitense. Visse tra il 1912 e il 1982, fu soprannominato il Chekhov delle periferie, e di lui Fandango pubblica Racconti italiani. Sono stati tradotti da Leonardo Giovanni Luccone, 96 pagine, 14 euro. Cheever, con i proventi dei primi successi letterari, passò con la famiglia un anno in Italia, il 1957. Il nostro naturalmente allora era un paese ancora agricolo, arretrato, ma di cui si percepivano le prime increspature di cambiamento, di cui troviamo traccia appunto in questo libro. Quell'Italia fece una grande impressione sullo scrittore, che seppe cogliere molti elementi del cambiamento, come testimonia per esempio la figura di una duchessa romana, nella cui parabola in qualche modo si raffigura la trasformazione, il cambiamento della grande aristocrazia. Sentite alcune righe da questa novella. Era snella, ma non magra, e piuttosto alta. Aveva i capelli biondo cenere e la sua fronte chiara ed elegante ben si confaceva al grandioso ma mal ridotto sfondo di calcare e marmi del palazzo romano di sua proprietà in cui viveva. Di buon mattino, allontanandosi dalle ombre del palazzo, a piedi, lungo il fiume, per andare a messa, non sembrava mai liberarsi del tutto da quella luce sfocata. Ci si sarebbe meravigliati, ma non preoccupati, nel vederla sulla sommità di Sant'Andrea della Valle, in compagnia dei santi e degli angeli di pietra. Non era la Roma delle guide turistiche, ma la Roma di oggi, il cui fascino non è certo dato dal Colosseo al chiaro di luna, o da Piazza di Spagna bagnata da un acquazzone improvviso, ma dallo struggersi di una grande e antica città che, confusa, soccombe sotto la spinta del cambiamento. Una scrittrice americana poco nota in Italia, ma invece di grande successo e popolarità nel suo paese, è Alice McDermott, di cui Einaudi pubblica Dopo tutto questo, è il sesto romanzo della scrittrice, 278 pagine, 18 euro, ed è tradotto da Monica Pareschi. In questo libro la scrittrice dimostra una grandissima capacità di fotografare un'epoca, quella che va dalla Seconda Guerra Mondiale fino al Vietnam, quindi un'epoca di straordinari cambiamenti, anche essa per gli Stati Uniti, e fotografa quest'epoca attraverso le vicende di una famiglia molto normale in cui la vita quotidiana scorrerebbe molto banalmente se non ci fosse stata una tragedia come la scomparsa di un figlio appunto in Vietnam. Come ha notato il New York Times, all'autrice non interessano in questo libro le storie però dei singoli, ma la ricostruzione attraverso queste vite e i loro episodi delle forze invisibili, a partire da quella inesorabile rappresentata dal progresso del tempo, che plasmano la vita, il destino delle persone, delle famiglie e la storia di un intero popolo. Vi propongo queste righe nelle quali la protagonista affronta una pagina importante della sua vita, una pagina molto inconsueta, la fila che dovrà fare per guardare la Pietà, la famosa Pietà di Michelangelo che nel 1964, in occasione dell'Esposizione Universale, raggiunse New York. Ma adesso erano solo loro due, madre e figlia. E mentre in ossequio alle abitudini mentali del marito, piuttosto che per impazienza, si rimproverava per non essere arrivata prima, Mary Keane si dispose tranquillamente a quella che sarebbe stata di sicuro una lunga attesa. Si trattava solo di prendere un autobus più tardi per tornare, si disse, di fare una telefonata ai ragazzi per dirgli di farsi un piatto di spaghetti e un'altra a Pauline, a cui aveva affidato Claire per tutta la giornata. A parte ciò, questa volta niente avrebbe impedito a lei e alla figlia di andare fino in fondo. «Probabilmente», disse alla figlia, «è meglio aver tenuto questa per ultima. Probabilmente, una volta vista questa, non avremo più voglia di vedere altro». E la fila avanzava, o meglio si trascinava, come se l'asfalto rovente risucchiasse i piedi, e con le persone così appiccicate tra loro che ogni passo causava l'urto o almeno il contatto con un altro corpo, un avambraccio nudo, un fianco morbido, la punta di un alluce contro il tallone. In mezzo all'aroma dolce di frittelle che impregnava la fiera c'era tutto un fiorire di odori corporei, profumo e dopobarba e sudore e capelli scaldati dal sole, l'odore degli aliti quando tutti si rivolgevano al vicino per dire «almeno ci muoviamo». Un'altra famiglia che attraverso le proprie vicende illustra lo spaccato di un'epoca è quella di Hans van der Broek, il protagonista olandese ma che vive a New York e che affronta la crisi del suo matrimonio dopo che moglie e figlio lo hanno lasciato per non vivere più nella metropoli frustrata dal dopo 11 settembre. Hans van der Broek è appunto il protagonista del libro di Joseph O'Neill, scrittore irlandese di nascita ma americano d'adozione, che si intitola La città invincibile, pubblicato da Rizzoli, 286 pagine, 19 euro, e tradotto da Matteo Colombo. Qui la solitudine del protagonista viene affrontata riscoprendo uno sport del tutto insolito per un occidentale, soprattutto per un occidentale a New York, il cricket, che nel libro assume un significato quasi catartico, come ci spiega in queste righe Chuck Ramkisson, un arbitro consapevole del ruolo del cricket che può diventare, come dice lui, un'autentica lezione di civiltà. Le persone, gli americani come chiunque altro, giocando a cricket raggiungono il massimo della civiltà. Qual è la prima cosa che succede quando Pakistan e India fanno pace? Giocano una partita di cricket. Il cricket è istruttivo, Hans. Ha implicazioni morali, lo penso davvero. Chiunque ci giochi ne trae beneficio. E allora io dico, perché non gli americani? Era così convinto che pareva quasi inferocito. Con un tono di voce confidenziale aggiunse, «Gli americani non vedono il mondo per com'è realmente». Credono di sì, e invece si sbagliano. Non sono certo io a dovertelo spiegare. Pensa ai problemi che stiamo avendo. È tutto un macello e non farà che peggiorare. Io dico, vogliamo avere qualcosa in comune con indù e musulmani? Ci pensa Chuck Ramkinson. Con il New York Cricket Club potremmo aprire un nuovo capitolo nella storia degli Stati Uniti. Perché no? Perché non dirlo, se è vero? Perché tenerselo per sé? Io voglio aprire gli occhi a questo paese. Ed è questo che intendo dire a quelli del settore parchi. Ne ho il dovere. Se gli dico che voglio costruire un campo da gioco per le minoranze, quelli mi ridono in faccia. Ma se gli dico la verità, ovvero che vogliamo dare inizio a qualcosa di grande, reintrodurre un antico sport nazionale, con nuovi campionati, nuove squadre, nuovi orizzonti. Restiamo in America con un grande classico, Jack London, che ci porta alle fobie che stiamo vivendo in queste settimane. Il suo è un racconto del 1912, si intitola La peste scarlatta, Adelphi, 94 pagine, 9 euro, ed è tradotto da Ottavio Fatica. Nel suo libro siamo nel 2072, il mondo è stato devastato da un'epidemia disastrosa, perfino più grave dell'influenza, che lascia i pochi superstiti in condizioni di vita assolutamente primitive. Uno di loro, un vecchio, si imbatte in un gruppo di ragazzi ai quali racconterà le cause del disastro, l'esplosione di cattiveria che esso provocò, ma anche le vette di quella civiltà distrutta di cui egli stesso cerca di trasmettere almeno la memoria, rivivendo alcune esperienze che l'umanità peraltro aveva già conosciuto prima di lui, come ci fanno pensare queste righe che adesso vi faccio ascoltare. Tutt'altra cosa è invece l'alfabeto. È quello che mi permette di conoscere il significato dei segni sottili, mentre voi ragazzi conoscete soltanto una rudimentale scrittura per immagini. Nella caverna asciutta su Telegraph Hill, dove mi vedete andare spesso quando la tribù scende al mare, ho raccolto molti libri. In essi è contenuta grande saggezza. Con i libri ho anche messo un cifrario per imparare l'alfabeto, in modo che chi conosce la scrittura per immagini possa capire la pagina stampata. Un giorno gli uomini torneranno a leggere, e allora, se alla mia grotta non sarà capitato nessun incidente, sapranno che il professor James Howard Smith è esistito e ha messo in salvo per loro il sapere degli antichi. E a questo punto... Il confettino. Per abituare a giocare con le parole e coglierne la sorprendente potenzialità, vi segnalo il mio magico pentolone delle meraviglie di Bruno Gibert, tradotto e adattato da Daniele Martino, pubblicato da Girolangolo EDT, 15 euro. Questo si rivolge a dei bambini che si stanno accostando alla lettura e che potranno creare con le strisce del libro infinite combinazioni di frasi sulle quali poi costruire altrettante infinite storie. E con questo ringrazio Vittorio Mussini in redazione e Paolo Corleone in regia. Vi ricordo il nostro indirizzo di posta elettronica, un libro@radio24.it. Vi auguro buona domenica e vi do appuntamento alla settimana prossima.